Quattro modi di conoscere Cristo. Come disse Omero, noi siamo fatti non per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. In effetti, noi nasciamo ignoranti e viviamo praticamente tutta la vita per imparare e conoscere. Conoscere se stessi, conoscere gli altri, conoscere il mondo. Anche nel campo della fede è così. Il cristianesimo presenta la persona di Gesù Cristo ed invita tutte le persone a conoscerlo. Ma la persona di Gesù può essere conosciuta in quattro modi. In merito, l'apostolo Paolo scrisse le seguenti parole. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che, se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. 2 Corinzi 5,14. Secondo Paolo, si può conoscere Cristo secondo la carne, oppure mediante lo Spirito. Conoscere Cristo secondo la carne vuol dire conoscerlo intellettualmente. Se ne sente parlare per televisione, nelle chiese, nei discorsi mondani, a scuola. Gesù come persona o personaggio storico è conosciuto in tutto il mondo. Nell'ambito del cristianesimo, poi, Gesù è sulla bocca di tutti, viene preso come esempio, è presente in ogni sermone, le sue parole e i suoi insegnamenti hanno formato la cultura di molti popoli. Ma nonostante la sua popolarità, Gesù rimane pur sempre un personaggio storico alla stregua di Ulisse, Napoleone, Garibaldi, Gandhi. I detti e le azioni dei quali non sono ritenuti dalle persone vincolanti per la loro vita. Così, conoscere Gesù secondo la carne significa avere delle nozioni intellettuali, significa anche imparare molte cose su di lui, come su intere pagine della Bibbia, ma senza esserne coinvolto. Come i pagani, descritti nella lettera ai Romani, hanno conosciuto Dio tramite la creazione e non lo hanno ringraziato né glorificato. Vi è un'altra possibilità di conoscere Cristo, cioè secondo, o mediante lo Spirito. La persona che conosce Cristo in questa nuova dimensione si rende conto innanzitutto della sua ignoranza, prende coscienza di quanto si trovasse lontano da una vera conoscenza del Figlio di Dio. Ed ora, poiché è diventato una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e sono diventate tutte nuove. È difficile spiegarlo a chi non lo ha realizzato, come è difficile far capire a qualcuno che non ne sia mai stato colpito cosa significa aver avuto un tumore. Per chi conosce Cristo mediante una identificazione nella sua morte, Cristo non è più un personaggio vago, indefinito, ma una persona con la quale si ha una relazione giornaliera. Questo è il senso di conoscere. Come ha detto qualcuno, se conoscere è detto di uomini in senso positivo con Yahweh come oggetto, il verbo non indica affatto una conoscenza puramente intellettuale, ma una relazione con la divinità, che interessa anche il comportamento pratico. Avere familiarità con Naomi. Occuparsi di Tuya. Virgolette punto. Proprio perché vi è questa relazione giornaliera con Cristo, colui che è nato di nuovo adegua il suo cammino e i suoi pensieri alla volontà di Dio, così come è espressa nella sua parola. Si può essere dei professanti del cristianesimo, si può essere convinti di appartenere a Cristo ma vivere con una propria morale o secondo i propri pensieri. Questo è uno degli aspetti più difficili da accettare per un credente, come lo è stato per il popolo di Israele. Tramite il profeta Isaia l'Eterno ha detto: «Ho steso tutto il giorno le mie mani verso un popolo ribelle che cammina per una via non buona, seguendo i propri pensieri». Isaia 65, 2. Come è difficile distinguere i propri pensieri da quelli di Dio? È vero, non è facile. Ma un modo per conoscerne la distinzione c'è. Ciò che pensiamo è frutto di un nostro ragionamento o cultura, quando nella pratica contrasta con la volontà di Dio. il profeta Geremia lo ha espresso molto bene. Ascolta, o terra! Ecco, io farò venire su questo popolo una calamità, il frutto stesso dei loro pensieri, perché non hanno prestato attenzione alle mie parole e neppure alla mia legge, ma l'hanno rigettata. Geremia 6:19. La legge di Dio si può rigettare in due modi: o trasgredendola apertamente, dando il culto ad altri che non sia il Dio d'Israele e dei cristiani, o rinnegandone lo spirito per la quale è stata data. Così tutti quelli che rivolgono preghiere a persone o a altri dì camminano secondo i loro pensieri, al pari di coloro che usano la parola di Dio per realizzare i loro scopi. Questo non è conoscere Cristo. Che cammina con Cristo Gesù sottomette pensieri e parole alla sua volontà. Un terzo modo per conoscere Cristo è quello di investigare le Scritture. L'ordine di Pietro è alquanto specifico. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore Salvatore nostro, Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. 2 Pietro 3:18. Quando si ha avuto una certa esperienza con Cristo Gesù, quando le cose vecchie sono passate e sono diventate tutte nuove, quando si è diventati figli di Dio, non si è arrivati, ma si è all'inizio di un cammino tutto nuovo, con una persona che fino a quel momento non si conosceva. Ognuno di noi, prima di avere avuto la rivelazione delle Scritture, si è formato un'opinione e un'etica secondo il mondo, secondo la cultura generale. Prima di diventare un figlio di Dio, avevo un'opinione di Cristo molto diversa, un'opinione che era conforme alla mia logica. Quando leggevo nelle Scritture, vedevo un Gesù settario perché aveva mandato a predicare i suoi solo per Israele, era scortese perché rifiutava di fare dei miracoli, era un provocatore perché faceva dei miracoli di sabato quando poteva farli in un altro giorno, era senza rispetto perché diceva ai farisei che erano ipocriti. Gesù era anche pignolo, perché quando qualcuno lo chiama buono, lui fa notare che di buono ci è solo Dio. Era ingrato perché quando un fariseo lo invita a mangiare, lui subito gli fa la morale del piatto. Era maleducato perché si invita a casa di Zaccheo. Era proprio senza tatto perché chiese ai due ciechi che cosa volevano. Sì, questi aspetti che notavo di Gesù contenevano delle verità, ma se dovessi oggi tratteggiare il carattere di Cristo, vedo un uomo che conosceva bene le Scritture, che pregava sempre, che dava il primo posto a Dio, era sereno nelle difficoltà, sapeva qual era la sua missione. Balza all'occhio nei Vangeli che Gesù chiedeva agli altri di fare ciò che lui faceva, era un acuto osservatore, amava i bambini, rispettava le autorità pubbliche, cercava di capire il prossimo, amava la giustizia, odiava il peccato. Inoltre, Gesù non si metteva in mostra, fuggiva la popolarità, era schietto, socievole. Evitava parole inutili, evitava di compiere anche i miracoli qualora fossero stati controproducenti. Era anticonformista, non faceva preferenze, sapeva tacere e parlare al momento opportuno. Gesù è stato il vero uomo, l'unico uomo secondo il pensiero di Dio. E per questo che non solo è utile, ma indispensabile conoscere il Gesù che scaturisce dalle Scritture. Chi non legge quotidianamente la parola di Dio non può conoscere il vero Gesù. Infine, vi è un quarto modo per conoscere Gesù, quello che si ottiene vivendo come egli visse. Se qualcuno pensa di avere di che confidare, io ne ho molto di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei quanto alla legge, fariseo quanto allo zelo, persecutore della Chiesa quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura, per guadagnare Cristo. Filippesi 3:4-8. L'Apostolo Paolo, come del resto tutti gli Apostoli, aveva conosciuto Cristo mediante la rivelazione dello Spirito Santo. Lo conosceva secondo le Scritture, ma ora ambiva a un'altra conoscenza: realizzare una vita simile a quella di Cristo. Per prima cosa, per conoscere Cristo, occorre un cammino che cancella il passato religioso di una vita. Non importa quanto si sia stati religiosi, perché questo può essere un ostacolo alla conoscenza Cristo. Paolo ha ritenuto il suo cammino religioso una spazzatura. Per conoscere Cristo occorre un cammino che cancella un passato di peccato, e questo è conoscere la potenza della resurrezione di Cristo. La vita di un cristiano cambia, se non cambia, questi non è un cristiano. Per conoscere Cristo occorre un cammino che cancelli il passato di uno spirito indipendente. Mentre prima si aveva l'autorità di gestire la propria vita, ora, insieme a tutta la Chiesa universale, si seguono le orme di Cristo. Al credente è dato non solo di credere, ma anche di soffrire come Cristo ha sofferto. Pretendere di conoscere Gesù Cristo solo con una vita tranquilla, senza persecuzioni, è un'utopia della quale il credente deve liberarsi. La vita cristiana non è una passeggiata nel giardino dell'Eden, non è un gioco. In un gioco si è liberi di scegliere le proprie regole, di riposarsi quando si vuole e di scegliere il tragitto che si vuole. Per conoscere Cristo, per identificarsi con Lui, è indispensabile rinunciare ai propri diritti. Per prendere la sua croce e seguirlo, con la croce sulle spalle. Noi abbiamo di Cristo quel tanto che vogliamo. Se vogliamo conoscerlo secondo la carne, non dobbiamo fare nulla di più di quello che stiamo facendo naturalmente. Se vogliamo conoscerlo secondo lo Spirito, secondo le Scritture, e nella vita pratica, dobbiamo amare Cristo più di noi stessi. Chi ha osato tanto, si è reso conto che ne vale la pena. Marzo 2005, Ellero,